24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, eccomi qua, eccoci qua cari ascoltatori a chiudere questa settimana di 24 mattino. Siamo in diretta fino alle 9, siamo anche nella nostra pagina Facebook, così ci trovate, 24 mattino. Di cosa parliamo? Beh, ultimi scampoli di campagna elettorale per le amministrative, di questo parliamo nel nostro sondaggio. Vi chiediamo banalmente, vi sono piaciuti i toni di questa campagna elettorale? Votate su radio24.it. A proposito di toni di questa campagna elettorale, ne troviamo alcuni interessanti sui giornali, giornali che andiamo a sfogliare. In primo piano. Venerdì 13 maggio, guardate le aperture di tutti i quotidiani generalisti, il Corriere della Sera, Berlusconi all'attacco di Pisapia. Per Repubblica, Berlusconi nuovo attacco a Pisapia. La Stampa, Berlusconi difende la Moratti. Il Libero oggi invece, avete presente quei manifesti che hanno fatto tanto discutere via le BR dalle procure? Propone un titolo simile, con lo stesso carattere su sfondo rosso, via le BR dalle liste elettorali. Questa è praticamente quasi l'intera pagina di Libero. L'estremista, titola il Riformista, l'estremista, c'è la foto di Silvio Berlusconi. Per il giornale, ma che scuse, votiamo. Il caso Milano e non solo. Per il manifesto, banditi a Milano, frequentava terroristi, brava Moratti, lei conferma e Berlusconi applaude. L'apertura del Messaggero invece è sull'altro annuncio che fa discutere di Berlusconi, case abusive, stop alle ruspe. L'apertura del Sole 24 Ore dedicata a un piano, un riassetto delle reti energetiche che hanno avuto uno stop. Stop al riassetto delle reti, congelati i piani di Terna ed Eni sul gestore unico. Il governo vuole aspettare che il quadro europeo si chiarisca. È molto interessante questo tema che vedremo più avanti. Da cosa voglio partire come segnalazioni? Beh, intanto dobbiamo dare veramente il premio sincerità, lo daremmo se ci fosse una statua, a Magdi Cristiano Allam, premio sincerità per aver detto quello che pensa, certo che insomma facendo suscitare qualche dubbio e qualche polemica del Parlamento europeo, lui che è parlamentare europeo. Sentite qui, è un'intervista fatta alla TV nuova del Riformista che oggi Libero riprende a pagina 5. All'Europarlamento non ci vado, però mi permette di mangiare. Così Magdi Allam, che dice alla una domanda, ma lei è uno dei più assenteisti del Parlamento europeo? Magdi Allam risponde, non mi vergogno di esserlo. È un'esperienza che sto facendo e non ho la minima intenzione di ricandidarmi. Non mi riconosco in questa Europa che è un colosso di materialità senza anima, che si vergogna delle proprie radici giudaico-cristiane, che vende i valori non negoziabili. E il Parlamento europeo è un'istituzione eletta dai cittadini, ma conta poco o nulla. In Europa il potere esecutivo e legislativo è nelle mani della Commissione europea. Al che alla domanda, scusi, ma perché rimane europarlamentare? È il mestiere che mi permette di mangiare. Premio alla sincerità di Magdi Cristiano Allam, che scrive Libero, insomma si tiene dicendo l'Europa mi fa schifo, però mi tengo 12.000 euro netti al mese perché quelli mi permettono di mangiare. Questo Magdi Cristiano Allam riproposto da Libero. E poi sul tema cultura, beh, c'è un terremoto vero e proprio che il Corriere della Sera mette in prima pagina, che ha annunciato il ministro della cultura Galan, che ieri era a Cannes e ha dato uno stop abbastanza netto alla costruzione del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia. Costa troppo rimuovere l'amianto. Il progetto di costruzione del nuovo Palazzo di Venezia, il ministro Galan ha detto, non ho intenzione di insistere per la costruzione perché si è scavato, si è trovato l'amianto a 9 metri sottoterra, sono già stati spesi 20 milioni per astrarre l'amianto, ce ne vogliono altri 15 milioni, io mi vergogno come cittadino e come ministro a usare tutti quei soldi per fare un buco. Occorre cautela, c'è un appalto aggiudicato, aziende che stanno lavorando, ma questa storia è messa malissimo, è una roba che mi angoscia. E qui insomma il Corriere la ripropone a pagina 61, ma e poi con richiamo in prima pagina, ma un po' tutti i giornali parlano di questo stop del ministro dei beni culturali al nuovo progetto del Palazzo di Venezia. Tra l'altro era presente anche il presidente della Biennale, Baratta, che è rimasto sorpreso. Cade dalle nuvole, annuncia il Corriere, ottenendo anche la solidarietà di consiglieri del ministero. Dice Baratta, non è sul tavolo che il nuovo palazzo del cinema non si faccia più, ma certo c'è questo amianto che è stato trovato, e il ministro Galan ha detto: io non ho intenzione di spendere tutti quei soldi, mi vergogno da cittadino, da ministro, di spendere tutti quei soldi solo per la bonifica, dobbiamo rivedere il progetto. Poi Galan ha fatto anche il nuovo attacco, non è nuovo, a Roma, dicendo il festival del cinema è uno, è quello di Venezia. In Francia non c'è mica il Festival di Parigi, c'è solo il Festival di Cannes, tanto che il messaggero in questa disputa, no? Roma-Venezia, festival contro festival, la punta proprio su questo, a pagina 27, Galan sulla Croisette, nuovo attacco a Roma, la mostra di Venezia è l'unico grande festival italiano. C'è anche un commento di Mario Aiello in prima pagina, dal titolo Galan e il festival, ci risiamo. Ma al di là di questa diatriba Roma-Venezia, davvero la notizia più importante è questo stop ormai prossimo, annunciato, a questo progetto del nuovo Palazzo del Cinema di Venezia, dato dal ministro Galan e che trovate sul Corriere, sui vari giornali. Ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi ripartiamo dalle notizie. Da che cosa? Beh, insomma, ci tuffiamo negli ultimi giorni di campagna elettorale vista attraverso i giornali. In primo piano. Eccoci qui alle 7:36 minuti. Allora, i giornali si concentrano soprattutto sugli ultimi giorni, l'ultimo giorno di campagna amministrativa, e questo è il tema del nostro sondaggio. Vi ricordo, vi chiediamo: vi sono piaciuti questi toni della campagna elettorale? Votate su radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30. Beh, il caso Milano è quello che più fa scalpore dopo l'accusa di Letizia Moratti, candidato del centrodestra, sindaco e candidato del centrodestra, che ha accusato il candidato del centrosinistra Pisapia di essere stato condannato e poi amnistiato 30 e rotti anni fa per un furto di un veicolo usato per il sequestro di un pestaggio di un giovane. Pisapia poi, carte alla mano, ha dimostrato in realtà di essere stato assolto per non aver commesso il fatto. Insomma, da qui si è generata questa polemica. La Moratti: non chiedo scusa. Oggi si sono intervistati entrambi a pagina 3, faccia a faccia, del Corriere della Sera. Perché dovrei scusarmi, dice Letizia Moratti, ho solo voluto rimarcare la differenza tra me e una persona che in passato ha avuto frequentazioni con ambienti vicini ai terroristi. Io sono una moderata, la mia storia lo dimostra, lui no. Sto parlando di una continuità culturale, non dico che Pisapia fa il terrorista, ma i centri sociali che lo sostengono sono indubbiamente figli di quella cultura. E poi dice la Moratti: anch'io sono stata attaccata pesantemente da Pisapia, che mi ha accusato di essere serva del padrone, schiava dei poteri forti. Replica Pisapia, che insiste: certo, la querelerò, è la prima volta nella mia carriera politica che arriva tanto, ho sempre goduto del rispetto e della stima di molti avversari. E poi risponde alle domande di Elisabetta Soglio dicendo: la parte di sinistra di cui ho fatto parte ha fatto da argine per tanti giovani che altrimenti avrebbero scelto la strada del terrorismo. Non ho mai conosciuto Don Accatten, Marco, il figlio dell'ex ministro Don Accatten, e Roberto Sandalo. Non ho mai avuto a che fare con loro, come dimostrano le carte che la Moratti non ha citato. E poi accusa: lei è più estremista di me e mi chiedo che differenza ci sia oggi tra la Moratti, Berlusconi e Lassini. Lassini, ricordate quello dei famosi manifesti via le BR dalle procure. Pisapia, intervistato anche da Repubblica, dice: sono meno estremista, 30 e rotti anni fa ero meno estremista di quanto sono estremisti oggi persone che siedono in Parlamento. Penso al sottosegretario Micciche, al ministro La Russa, al sindaco Alemanno, ma anche a chi militava in Potere Operaio. Insomma, la contesa è su questo. Libero, come detto, titolo a prima pagina, facendo il verso anche grafico a quel via le BR dalle procure, a tutta pagina su sfondo rosso, via le BR dalle liste elettorali, con l'editoriale di Vittorio Feltri che dice e che scrive: il nostro appello odierno, via le BR dalle liste elettorali, che fa il verso proprio al manifesto di Lassini. Per dire: gli italiani non vogliono e sono pregati da ritirarsi i partiti che accolgono e coccolano tutti quei militanti di risulta dei gruppi fanatici prevalentemente di sinistra. Insomma, i toni non si abbassano su questo. C'è anche molto di discussione sull'annuncio, l'abbiamo sentito in GR24, del premier Berlusconi, che per la vicenda di Napoli ha in pratica ha detto: nel prossimo Consiglio dei Ministri faremo un provvedimento per sospendere la demolizione delle case abusive in Campania. E i giornali ripropongono questa idea. C'è anche la tensione con la Lega, avete sentito Borghezio ieri da Giuseppe Cruciani dire una grandissima cazzata, Calderoli anche si è smarcato, la Stampa va già a fare i calcoli a pagina 5 di quanti voti un annuncio del genere può spostare, mossa da 60.000 voti secondo Giuseppe Salvaggiulo che scrive da Napoli. Incrociando dati, stime di esperti, si calcola che 60.000 voti potrebbe valere un annuncio del genere. Questa è la riproposizione dell'annuncio di una sanatoria prima di questa elezione. Secondo i dossier di Lega Ambiente, la Campania è il paradiso dell'abusivismo edilizio. 500 casi al mese, 60.000 nell'ultimo decennio, il 20% del totale italiano. Il Sole 24 Ore è critico. In un editoriale comparso a pagina, uno dei tre editoriali, a pagina 20, la strizzata d'occhio all'abusivismo edilizio, proprio no, presidente Berlusconi. Non va bene neanche per raccogliere qualche voto in più dell'ultimo momento a Napoli. Non va bene per molte ragioni, forse è inutile ricordarle tutte: le connessioni del fenomeno dell'edilizia informale con la criminalità organizzata, per esempio il rischio idrogeologico. Aver detto no a nuove forme di condono edilizio dopo i tre dell'85, 94, 2003 è una conquista dell'Italia di oggi. C'è anche un argomento economico che si può usare per dire no all'abusivismo, un argomento che crea ricchezza e occupazione, una politica di riqualificazione e manutenzione di un territorio che resta ancora una delle grandi opportunità dell'Italia. Tra l'altro è critica anche l'Unità che su questo titola voto di scambio, case abusive stop alle ruspe, con il direttore Concita De Gregorio che definisce un appello ai disperati questo, un appello che suona come qualcosa di sconcio e disperato insieme. Il Riformista invece fa notare che su questo la frattura con la Lega o l'allontanamento con la Lega è abbastanza forte, tanto che in un retroscena del Riformista, pagina 3, firmato da Tommaso Labate, Berlusconi si chiede: ma fanno la gara contro di me? Il partito della Lega infilza il Premier sia su Milano che sui condoni, sembra quasi l'avviso di un divorzio che potrebbe consumarsi a Pontida, con un annuncio epocale anticipato dal senatore. Attenzione, perché prima delle amministrative, appunto, il ministro Calderoli ha detto: Pontida, il raduno annuale di Pontida, verrà posticipato di una settimana, credo fosse il 12, si terrà invece il 19 di giugno. Questo perché, Calderoli dice, verrà fatto un annuncio epocale. Ora, già subito c'è il giallo di questo annuncio. Quale annuncio epocale farà Umberto Bossi? In realtà pare che già qualcosa si possa scoprire sui giornali. Per esempio, a pagina 2 della Stampa, Francesco Moscatelli racconta che l'annuncio epocale di Umberto Bossi potrebbe essere questo: facciamo una legge popolare per istituire un referendum popolare per spostare alcuni ministeri al nord. Non è una novità, Bossi lo aveva già lanciato. Referendum per i ministeri al nord. Questo potrebbe essere annunciato da Pontida il 19 di giugno. Proprio ieri il Presidente della Repubblica ha ribadito la sua contrarietà. Si va decisamente verso il decentramento di funzioni e competenze amministrative, ma occorre tenere ferme alcune esigenze fondamentali di salvaguardia delle strutture portanti di uno Stato nazionale. Questo ha detto il capo dello Stato napolitano. Forse avendo sentore di quest'aria nuova che la Lega vuole di spostare, di proprio annunciare anche una legge popolare per spostare alcuni ministeri al nord. Tra l'altro viene annunciato anche una battuta di un colonnello della Lega, dice: pensate quanto il responsabile Saverio Romano, che è il neo ministro dell'agricoltura, sarebbe contento di fare le valigie e spostarsi con tutto il suo dicastero qui a Milano. E insomma, tra lo scherzo e non lo scherzo, il tema potrebbe essere questo. C'è il Corriere anche che tenta, con Fabrizio Roncone, tenta, bisogna dire, di intervistare Beppe Grillo, che viene raggiunto alle 17:54, racconta racconta Roncone, a un collaboratore gli passa il cellulare e lui attacca: siete piccini voi giornalisti, voi cosa vuole farmi delle domande, voi giornalisti che fate delle domande. Così Beppe Grillo accoglie Fabrizio Roncone, che gli dice: guardi, io le vorrei solo chiedere perché lei ha detto a salut buson, cioè ti saluto culattone a Vendola, salutandolo, no? Siete piccini, sciocchi, gretti voi giornalisti, ho usato il termine busone, come a Roma direi mortacci tua, uso il dialetto locale, e poi io Vendola lo demolisco coi fatti, non con gli insulti, tutta la sinistra la demolisco così. E poi Beppe Grillo che dice: ma la sinistra italiana non c'è più, è sparita, si è sciolta, siamo noi ad avere un programma nuovo. Al che Roncone gli chiede del candidato di Milano, no? Il ventenne. E beh, ventenne, allora è onesto, intelligente, risponde Beppe Grillo. Certo, ha una notevole inesperienza con l'andrangheta, non ci ha mai fatto affari. È questo il problema? Me lo dica, è questo il problema? Questo vi mette ansia a voi giornalisti? Mi fate pena, mi fate. E poi dice: adesso la saluto, però le voglio dire, lei non mi ha fatto per nulla una buona impressione, caro giornalista. Clic. E finisce la conversazione di Beppe Grillo con Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. E noi andiamo al traffico. In primo piano. Per le notizie economiche vi voglio segnalare, come detto, l'apertura del Sole 24 Ore, titolo Stop al riassetto delle reti. Di che cosa si tratta, come raccontano Laura Galvagni e Federico Rendina, pagina 3. Beh, intanto del progetto del maxi polo nazionale delle reti che subisce una battuta d'arresto. Il piano di riassetto, che considerava l'opportunità per esempio di un'aggregazione tra Snam, Rete Gas e Terna per creare un gigante da 22 miliardi di capitalizzazione, è stato accantonato per i prossimi 12 mesi, ma forse anche 18 mesi. Una decisione, fa sapere il Sole 24 Ore, politica, perché il governo intende attendere che le regole europee in materia energetica vengano uniformate prima di procedere per raccogliere le migliori opportunità. Ma subisce anche uno stop il dossier telecomunicazioni, con lo scorporo della rete che resta una opzione esclusa da Telecom Italia. E anche il nuovo progetto di portare la maxi rete nazionale di fibra ottica nelle case degli italiani, anch'esso è un progetto al palo, perché il tavolo proposto dal ministro Romani non è riuscito a produrre una soluzione condivisa sulle tecnologie da utilizzare e i costi da dividere tra i vari competitor. Tutto questo racconta, insomma, di progetti al palo, comunque di progetti rinviati almeno per un anno, se non di più, a pagina 3 del Sole 24 Ore. Tra l'altro, del Sole vi voglio segnalare oggi un'interessante pagina che riguarda soprattutto tutti coloro che fanno i cosiddetti lavori usuranti, lavori in galleria, nelle cave, nel vetro, lavori notturni, e che hanno per questo diritto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un decreto legislativo, della pensione anticipata. Tutti questi dettagli li trovate a pagina 34. Istruzioni per l'uso sulle retribuzioni, detassazione dei premi, il 2011 cambia registro, e soprattutto un focus sui lavoratori usuranti, per l'appunto come avere tutti i diritti per avere la pensione anticipata. Del Sole 24 Ore segnalo anche la vicenda delle spiagge, di cui tanto ci siamo occupati, perché il decreto, che come anticipava il Sole era un po' sotto lo sguardo critico della lente di ingrandimento del Quirinale, verrà probabilmente modificato. Il diritto di superficie delle spiagge ai privati sarà abbassato da 90 a 20 anni. Spiagge ai privati per 20 anni, questo è il titolo del Sole a pagina 7. Sono dunque tagliati i termini per il diritto di superficie. Scompare anche nel decreto sviluppo la norma sui patti di famiglia. Insomma, ci sono delle modifiche, la più evidente delle quali è proprio quella che riguarda le nostre coste italiane, ma non solo, e i dettagli li trovate tutti a pagina 7. Per quel che riguarda la cronaca, c'è un ministro dell'interno, Maroni, molto arrabbiato, anzi per la verità l'aggettivo che ha usato è allibito, nei confronti della Corte Costituzionale, che con una sentenza ha giudicato incostituzionale un'altra parte, non è la prima volta, del famoso pacchetto sicurezza del 2009. Marco Ludovico, a pagina 17 del Sole, parla di un altro schiaffo al pacchetto sicurezza. In particolare, che cosa è stato bocciato questa volta? È stata bocciata quella norma del pacchetto sicurezza che prevede per gli omicidi l'obbligo di restare in carcere anche prima del giudizio definitivo, del giudizio di terzo grado. Secondo la Corte Costituzionale questa norma è incostituzionale, cioè no all'obbligo di carcere per l'omicidio. Così titola Repubblica. È una decisione che è stata sollevata da due tribunali, anzi dal tribunale credo di Lecce, nel caso di una prostituta che per cercare di liberarsi da questa vita di strada nei confronti del suo protettore lo ha ucciso, il suo ex fidanzato, e che era stata mandata in carcere in attesa della condanna definitiva, ma la Corte Costituzionale ha detto no, può anche andare agli arresti domiciliari in attesa della sentenza definitiva, e dunque no all'obbligo del carcere per l'omicidio. È stato demolito questa parte del pacchetto sicurezza. C'è molto della RAI. Intanto vi segnalo Massimo Mucchetti sul Corriere, inizia una inchiesta sui veri conti della RAI. Debiti per 320 milioni e perdite per 180 milioni, queste sono le sfide che deve affrontare il nuovo direttore generale della RAI, Lorenza Lei, per rimettere in sesto il bilancio. Tutti i dettagli dei conti li trovate a pagina 39 del Corriere. E poi c'è la polemica su Vittorio Sgarbi. Allora, Vittorio Sgarbi, il giallo è: inizia o non inizia questo programma che era previsto per il 18 maggio, prima puntata, la prima puntata era dedicata a Dio. Beh, Lorenza Lei ha detto: vuole andare in onda? Registri. Che è un modo, come dire, così controlliamo che dice. E Vittorio Sgarbi dice: non sono gradito, mollo tutto, ma datemi 3 milioni di euro. Così su Libero, anche sul Giornale, che titola in prima pagina: vogliamo vedere Vittorio Sgarbi, mentre altri guai per la RAI e per Minzolini, il direttore del TG1. E questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Indagato Minzolini, può restare al suo posto. L'indagine dell'inchiesta della Procura di Roma, l'accusa è peculato, avere utilizzato 68.000 euro con la carta di credito aziendale, mentre lui, insomma, in maniera impropria. Peculato, ricordano Marco Lillo e Carlo Teccia a pagina 3 del Fatto Quotidiano, che prevede un reato molto grave, che prevede un carcere per da 3 a 10 anni per l'incaricato di pubblico servizio che si appropria del denaro altrui avendo disponibilità di questo denaro. Così Augusto Minzolini, indagato, il Fatto Quotidiano ci titola. Vabbè, ci fermiamo qui con la rassegna stampa. Il sondaggio, i toni della campagna elettorale vi sono piaciuti? Ne parliamo alle 8.30 dopo il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati, eccoci qua ad Alessandro Milan alle 8.22 minuti. Voglio salutare l'onorevole Maurizio Turco. Buongiorno onorevole. Buongiorno a lei. Dei radicali eletto nel Partito Democratico, l'unica persona che, sfruttando queste prerogative dei parlamentari che possono entrare in carcere. Mi scusi, più che sfruttando. No, utilizzando. Non era negativa. No, ma io direi sarebbe quasi un dovere. Un dovere. Togliamo anche il quasi. È un dovere dei parlamentari quello di visitare le carceri. Visitare le carceri. Lei ha incontrato Calisto Tanzi, e allora per noi è un testimone prezioso. Lei è davvero Calisto Tanzi, per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha detto deve rimanere in carcere. È davvero oggi Libero titola il piagnisteo stonato di Tanzi in cella alla mia età. Ci dica un po', si è lamentato davvero così Calisto Tanzi? Guardi, io non sono un medico, peraltro ho incontrato anche Calisto Tanzi, nel senso che non sono andato a visitare, come spesso si fa, una persona in particolare. Noi visitiamo incessantemente i penitenziari italiani, che riteniamo essere ormai arrivati a rappresentare delle piccole Shoah per il loro numero di morti, di suicidi, di condizioni di vita. E quindi mentre visitavo il penitenziario, Calisto Tanzi stava andando in infermeria e l'ho incontrato. Ho visto una persona provata, come è abbastanza logico che sia per chiunque, e quindi per una persona che ha un tipo di vita particolare come l'ha avuto lui, particolarmente provata. Parlando lì è uscito fuori che ha tutta una serie di problemi, ha avuto un'ischemia, un infarto, sapendo che lo Stato deve garantire la sicurezza dei cittadini in genere, e in particolare di coloro che è in custodia 24 ore su 24, ma questo sappiamo è una barzelletta per le condizioni in cui sono custoditi questi cittadini. Beh, Callisto Tanzi si è detto meravigliato del fatto di essere stato riportato in carcere alla sua età, ma io non intendo essere, perché non lo sono, né il medico. Lei è un nostro testimone, insomma, cioè, l'ha visto, ci cioè, ha scambiato qualche chiacchiera, quindi ci interessa il suo quello che ci può dire. Senta, è anche vero, voglio dire, infatti questo ha un po' stonato il fatto di dire 4 anni è una pena un po' severa, perché 4 anni e 4 mesi deve, ma quella è la pena appunto della magistratura. Lei non ha notato, perché molto Libero oggi lo fa notare, ma anche altri giornali, una mancanza di rispetto verso tutte quelle persone che sono state truffate, risparmiatori, cioè un segno di pentimento, un qualcosa, oppure un Callisto Tanzi, insomma. Ma guardi, non siamo entrati nel merito della sentenza, anche perché non fa parte delle prerogative. Noi dobbiamo visitare per valutare le condizioni di detenzione e basta. L'unico scambio è stato relativo al fatto che gli ho ricordato che quando fu arrestato la prima volta ero a San Vittore, anche lì casualmente, e lui si rifiutò di incontrarmi. Ah. E mi ha ricordato che dopo 2 giorni andò lì invece Cossiga, che lui incontrò, e mentre in questa occasione di quel tipo di visite non ne ha ricevuto alcune. È chiaro che un uomo di potere come Callisto Tanzi è stato di fronte alla situazione in cui oggi si trova abbandonato, cambiato. Certo, è stato anche abbandonato. Ci sono delle vittime che vanno risarcite. Dopodiché, a prescindere dalla visita in carcere, anch'io ho la mia idea su quel processo. Le vittime vanno risarcite, ma a mio avviso l'unico colpevole non è Callisto Tanzi, ecco. Non è lui. Non è lui, ma non è l'unico. Lui. Senta, lei l'ha visto in condizioni compatibili con la carcerazione? Per quello dice, appunto, non è il suo medico, però l'ha visto molto provato. Secondo lei è ingiusto che Callisto Tanzi rimanga in carcere? Guardi, non spetta a me stabilire se è ingiusto, se le sue condizioni di carcerazione sono compatibili o meno. Per il momento comunque era in isolamento, che a secondo dei punti di vista può essere, viste le condizioni delle carceri italiane, un privilegio, però stare 24 ore su 24 da soli in una cella senza nessuno con cui parlare diventa anche una prova di forza. Onorevole Turco, che ne pensa di quegli italiani, e non sono pochi, che dicono: ma come, siamo il paese dei buonisti, guardate che hanno fatto a Bernard Madoff, no? Autore di una truffa colossale negli Stati Uniti, passerà la sua vita in carcere, nonostante l'età, nonostante immagino sia anche lui anziano. Lo dice a me, guardi, io alla Camera per il recepimento delle convenzioni internazionali del riciclaggio sono 5 anni che ci lavoro. Direi quasi inutilmente, cioè inascoltato. Non siamo in grado di recepire le convenzioni internazionali sul riciclaggio, in compenso siamo capaci di fare le depenalizzazioni sulle bancherotte. La domanda era sul fatto che Madoff è in carcere e nessuno lo discute in America questa cosa. Ma guardi, non è il problema di discutere se Callisto Tanzi debba stare in carcere o meno. Le ho già detto, non dipende da me. Io penso che quando uno sbaglia debba pagare, dopodiché lo Stato ha anche degli obblighi costituzionali, e quelli che sono quelli del recupero del detenuto. In Italia spesso chi sbaglia non va in carcere, ci sono moltissimi detenuti in attesa di giudizio, tantissimi di questi poi verranno assolti per i reati più gravi, specialmente di tipo finanziario. Altro che paese buonista, il nostro è un paese lassista. Ma perché chi è al governo? Questo ha voluto. Un'ultima domanda, onorevole Turco, mi sembra di capire che da quello che ho letto l'amarezza maggiore di Tanzi è quello proprio dell'abbandono, soprattutto da quei politici che gli facevano, insomma, che gli bussavano alla porta spesso quando era in auge, no? Ma, guardi, questa è l'impressione che ho avuto, nel senso che è una persona anziana, sola e abbandonata. Da chi? Da tutti. Va bene, io di questo intanto la ringrazio per essere stato con noi. L'onorevole Maurizio Turco, ricordate, del partito dei radicali, eletto nel Partito Democratico in Parlamento, che è andato appunto in carcere nelle sue visite, ha incontrato anche Callisto Tanzi. Ci fermiamo qui per la pubblicità del meteo e poi parliamo di campagna elettorale. Allora, la domanda che vi poniamo nel sondaggio è questa: i toni di questa campagna elettorale vi sono piaciuti? Vi sono piaciuti? Certo, sono stati degli insulti, però magari qualcuno dice: vabbè, ma la campagna elettorale, si sa, no? I toni ogni tanto, no, si alzano, è giusto così. Oppure dite: no, non si è capito niente dei voti, delle amministrative, dei progetti per le città per le quali si va a votare, e si è solo pensato a delegittimare l'avversario, accusarlo, anche le istituzioni, eccetera. Ne parliamo tra poco. 800 24 0024 se volete intervenire in diretta. Ci sarà il direttore del giornale Alessandro Sallusti, ci sarà uno psicologo del linguaggio con noi. Che dire, votate radio24.it e tra pochissimo siamo da voi. 24 mattino. Siamo qui alle 8:36 minuti, evviva! Eccoci qua. Il voto, i toni di questa campagna elettorale. Vi sono piaciuti? Questo vi chiediamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Lo facciamo con Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Voglio salutare anche Alessandro Amadori, che è direttore dell'istituto di ricerca, psicologo del linguaggio, direttore dell'istituto di ricerca. Buongiorno Amadori. Buongiorno, buongiorno. Ci dica l'istituto di ricerca, che in questo momento si chiama Coesis. Perfetto. Coesis Research. In questo momento mi sfuggiva, grazie. Senta, da cosa vogliamo partire? Beh, sentiamo un piccolo blob, una, no? Qualche dichiarazione qua e là. È stato dalla Corte d'Assise giudicato responsabile di un reato, il reato di furto di un veicolo per il sequestro e il pestaggio di un giovane. Con una mossa premeditata, progettata a tavolino, ha ritenuto di fare un'operazione di chiaraggio mediatico. La Boccasini che sia una metastasi mi sembra evidente. Invece che fare campagna elettorale all'insegna di false promesse e di attacchi personali, forse è bene che vada Zelic a raccontare qualche barzelletta. Anche l'accusa di razzismo, sì sì, un razzismo c'è, è quello della sinistra contro la nostra gente. Se uno non ha nessun altro argomento che offendere i leader dell'opposizione in questo modo, francamente, diciamo, di meschina volgarità, tutte stupide. Stronzate, lo possiamo dire. Sì, stronzate. È uno stronzo come te. Un'Italia più serena, meno lacerata, meno divisa, che la lotta politica non sia una guerra continua. Se dessi luogo all'istinto, quasi quasi lo picchierei. Sarà un giorno qualcuno che va a Roma e gli strozza questi qui. È un imprenditore straordinario. Ma voglio venire, è un grande uomo di televisione. Aspetti, ma io l'arrivo da lei. È un grande uomo di televisione. Mi pare che la notte faccia cose straordinarie. C'è solo una cosa che non sa fare: governare questo paese. Dio buono. Bisogna anche sdrammatizzare. E francamente, guardi, se ci fosse un leader della sinistra che mi accusasse di non lavarmi, mi farei una risata. Si farebbe una risata. Ogni tanto è giusto che anche Letizia tiri fuori le unghie. Che ci sia rispetto reciproco anche tra le parti che fanno politica e competono per conquistare la maggioranza nelle elezioni. Già, e allora Alessandro Sallusti, direttore del giornale, oggi titola: ma che scuse, votiamo il caso Milano. Perché questi toni, Sallusti? Ma io mi sorprendo di chi si sorprende. In Italia, ma non soltanto in Italia, in tutto il mondo la campagna elettorale è esattamente questa cosa qui. Se andiamo indietro nel tempo, dal referendum Monarchia Repubblica alle prime elezioni di questa Repubblica, la campagna elettorale è stata esattamente questo. Guareschi, Don Camillo e Peppone, i toni sono stati questi. La campagna elettorale è una sfida, è una guerra dove addirittura tutto è lecito, dal punto di vista ovviamente verbale. Ma voglio dire, ma tutto è lecito anche, non so, allora, che la Moratti abbia detto una cosa giudiziariamente falsa, questo le non carte. È vero, no, giudiziariamente l'accusa, l'accusa all'amnistia, non è no, vero. È incompleta.

male dall'una e dall'altra parte. Io l'ho trovato molto deludente. Tra l'altro io devo dire che non l'ho citato finora, ma l'89% dei nostri ascoltatori che votano su Radio24.it dice no, questi toni non ci piacciono di questa campagna elettorale. Dopo il traffico vorrò chiedere a Sallusti questo, cioè perché non si capisce perché a ogni tornata elettorale poi si discute, ma in fondo saranno anche amministrative come per le regionali, come per le europee, ma poi è un referendum sempre su chi governa, cioè se viene supportato oppure no dai voti. E deve essere sempre per forza così, cioè se si vota per Milano, se si vota per Napoli, se si vota per il sindaco di Bologna, di Torino e di tante altre realtà, bisogna invece votare per il PDL o per il PD o per il Terzo Polo, eccetera, indipendentemente da quello che sono invece i voti locali, quello che conta sulle proposte locali. In Italia sembra sempre così, a meno a giudicare dalla campagna elettorale, tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora Sallusti, perché se si vota per Milano, per Napoli, Bologna, Torino e città bisogna votare pro o contro il governo? Ma io credo che questo sia giusto per certi versi, nel senso che ovviamente tutti i sindaci, i candidati sindaci sia di destra che di sinistra, sui problemi spiccioli, credo che non ci sia una grande differenza, tutti i sindaci promettono di tappare le buche, di trovare nuovi alloggi, insomma di fare quelle cose di buon senso di cui il cittadino ha bisogno. Dopodiché però le città e soprattutto le grandi città si sviluppano secondo una visione politica generale, sia dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista delle regole condivise, sono concetti generali, non è che siano concetti locali. Cosa fare o non fare rispetto ai clandestini, cosa fare o non fare rispetto ai matrimoni gay, cosa fare o non fare rispetto alla visione appunto urbanistica della città, non è che siano concetti locali, sono concetti politici generali che si rifanno non tanto al candidato sindaco, ma si rifanno al partito di appartenenza. Quindi insomma quando cambia l'aria sul partito, poi diventa si riflette sul governo. Questo è successo appena successo in Germania, appena successo in Francia. È ovvio che questo giudizio poi condiziona in maniera pesante anche a livello nazionale. Sentiamo cosa ne pensa Giovanni da Varese, che ci ha chiamato all'800240024. Giovanni, buongiorno. Sì, grazie, buongiorno. Dica. Ma io ho una semplice proposta che mi pare in contro a quello che dice Amadori, che è impedire ai leader politici nazionali, diciamo così, di andare a parlare nella campagna elettorale di temi che non siano locali. O vanno lì e parlano dei problemi concreti, dei progetti che candidato sindaco ha, gli si spegne il microfono, che si fa? C'è un censore che succede? Non Giovanni? Lo so, è chiaro che poi è un comizio di parte nessuna battuta. Vabbè, ma guardi che il leader nazionale di un qualsiasi partito poi è espressione di un territorio. Spesso si criticano i politici perché sono staccati dal territorio e poi magistrati oppure per il centro-sinistra di Berlusconi. Questo non aiuta a stemperare i toni, anzi allontana ancora di più. Più che altro non aiuta, si vota a Varese, io non lo so Giovanni, si vota a Varese. A Varese città si vota. Non aiuta a capire che cosa si può fare per Varese, più che altro, se uno viene a parlare dei magistrati. Io ho fatto sindaco in un paesello vicino a Varese, il problema di fare sindaco non è solo tappare le buche ma avere un progetto su una città. Va bene, grazie Giovanni, rimaniamo da un Giovanni, ma andiamo a Brescia. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho chiamato questa mattina perché avrei preferito che praticamente la campagna elettorale fosse improntata più sui problemi reali della gente, non su sciocchezze o su, come al solito, il gossip. Perché se andiamo avanti con l'Italia del gossip non andiamo più da nessuna parte, probabilmente affondiamo. Quindi a lei non è piaciuta per niente. Va bene, grazie Giovanni. Amadori, quanto può valere, a meno la stampa lo quantifica già in 60.000 voti, quell'annuncio di Berlusconi ieri su Napoli, faremo un decreto per sospendere la demolizione delle case abusive. Problema molto sentito credo a Ischia, ma non so, c'è anche un partito, no, a Ischia, un partito che è anche abbastanza forte, però in realtà milita dall'altra parte politica che vuole questo. Quanto può valere un annuncio del genere e quanto è compatibile, insomma, voglio dire, che l'abusivismo sia una cosa illegale non lo dobbiamo certo scoprire oggi. Allora, è chiaramente una mossa opportunistica, e però se ci pensa va nella direzione di trasferire sul piano locale una qualche forma di dimensione progettuale, quindi è un esempio di come un leader nazionale possa comunque a modo suo cercare di adattare la propria azione al territorio. È una mossa diciamo disinvolta, è un trucco, un effetto speciale, però ha effetto e rientra un po' in quello che vi dicevo prima. Posso capire la guerra intesa come uso di strategie anche di guerriglia, anche non convenzionali, ma che si possano tradurre in un qualche tipo di promessa o di beneficio atteso per il consumatore. Questo genere di misure ha sempre un certo effetto elettorale, quindi è verosimile la stima di un potenziale di spostamento di voto, se non proprio di 60.000, sicuramente di una trentina di migliaia di voti. Quindi si tratta di marketing politico non convenzionale, se vogliamo, di guerriglia. Esiste proprio un termine anche nella consulenza politologica, il guerriglia marketing, cioè marketing di guerriglia, però può avere un suo effetto e può anche avere una sua logica. Almeno c'è una strategia, quello che dicevo prima, no? C'è una strategia dietro, si lavora sui bisogni e sui desideri dei cittadini. Quello che invece non funziona mai è l'uso squalificatorio della comunicazione, dove non c'è né una promessa, né l'evocazione di un desiderio, né la comunicazione di un progetto, c'è semplicemente l'attacco personale all'altro. Di solito queste misure non hanno nessun effetto elettorale, quindi sono perfettamente inutili e semmai aumentano la propensione a non andare a votare. Vi cito un solo dato di ricerca: secondo uno studio dell'Università Cattolica, oramai il 40% degli italiani non si sa più autocollocare, che non vuol dire che non andrà sicuramente a votare, anzi deciderà l'ultimo, non riesce più ad autocollocarsi, cioè non si riconosce più nel linguaggio, nell'offerta, nel modo di essere dei partiti e degli schieramenti. È tantissimo, quindi c'è un potenziale elettorale enorme che nessuno sta valorizzando. Io sono convinto che prima o poi nasceranno nel nostro paese nuovi partiti che daranno un taglio abbastanza definitivo con questo modo. Qualcuno dice che il movimento di Beppe Grillo potrebbe essere questo. La Sallusti mi difenda, voglio sentire come vi difende questa cosa della difesa di Berlusconi degli abusivismi. Cioè, detto, insomma, per carità, è una mossa che potrà spostare tanti voti. Io, se ho una casa abusiva e mi sento il presidente del consiglio che mi dice stai tranquillo che non te l'abbatto, magari posso anche votarlo. E però voglio dire, Sallusti, non è, cioè, voglio dire, come la giustifichiamo questa cosa? Arrivo subito a Berlusconi. Rispetto a che Beppe Grillo sia il nuovo, dico che Beppe Grillo ieri ha dato del busone, che tradotto sì, un paio di giorni fa, culattone, ha dato del busone a Vendola, sì, è vero. Nessuno si è scandalizzato. No, c'è stata delle polemiche, ma insomma io non l'ho visto sulle prime pagine dei giornali. Vabbè, non è da prima pagina, dai. L'abbiamo allora fatto sentire anche la sinistra non si lava, non è da prima pagina, c'è sempre al doppio pesismo, voglio dire, è campagna elettorale, secondo me non mi scandalizzo che Grillo abbia dato del busone, però non diciamo che Grillo sia il nuovo, voglio dire, è uno che pontifica il rispetto dell'ambiente e va in giro in Ferrari e in SUV. Ma a parte questa demagogia, io dico che la mossa su Napoli sicuramente ha un sottofondo elettorale, ma anche molto pragmatico, come tutte le cose che dice Berlusconi. Qui non parliamo della villetta abusiva sulla spiaggia che è fatta dal furbetto, che va ovviamente abbattuta, parliamo di interi quartieri costruiti in maniera abusiva dove vivono migliaia e migliaia di persone. Ora, è demagogico mandare le ruspe, è giusto dal punto di vista tecnico, ma è demagogico dire il 20 settembre, il 20 giugno arrivano le ruspe e abbattono i quartieri, perché queste migliaia di persone dove le mettiamo? Allora è molto più pragmatico dire fino a dicembre niente ruspe, siccome vinciamo le elezioni, dice Berlusconi a Napoli, da qui a dicembre troveremo il modo di sistemare questa gente e poi mandare le ruspe. Cioè non è una difesa, non è una difesa dell'illegalità. No, credo proprio di no, mi sembra una mossa pragmatica, perché voglio vedere come si fa tra 15 giorni a mandare delle ruspe ad abbattere non una villetta ma quartieri interi. Va bene. Non credo che sia percorribile. Io intanto qui mi devo fermare ringraziando il direttore del giornale Alessandro Sallusti e Alessandro Amadori, direttore dell'istituto di ricerca Coesis Research, per essere stati con noi. E, insomma, poi la campagna elettorale oggi, l'ultimo giorno, poi da mezzanotte, silenzio, chissà, speriamo, poi si andrà a votare domenica, lunedì, ovviamente Radio 24 seguirà tutto passo passo. Che dire, devo dare la linea, oggi c'è Deborah Rosciani, la la mia amica Deborah Rosciani, no? Al posto di Oscar Giannino, sì. C'è Deborah, ciao, un abbraccio a Deborah, ovviamente. E che dire, saluto Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè, il nostro alpino in regia. Noi ci troviamo lunedì mattina alle 7.20. Oh, andate sulla pagina di Facebook, siete un po' lenti. 24 mattino, su Facebook ci trovate. Vi piace Facebook? Andate lì e vedrete che vi divertirete. A lunedì.